Blu Mattino. Il Veneto come non l'hai mai sentito. E allora, amici di Blu Mattino, è un vero piacere per me presentarvi e salutare Giorgio Faletti, che è venuto qua negli studi di Blu Radio Veneto. Benvenuto Giorgio. Ben trovato e un saluto a tutti quelli che ci ascoltano. Allora Giorgio, tu sei qua in Veneto, sei passato per dei motivi personali e quindi sei venuto a trovarci, ma approfittiamo di questa tua visita anche per raccontare da poco è uscito un tuo triplo lavoro, diciamo. Sì, ecco, oltretutto, pur avendone già parlato diffusamente, faccio un po' fatica a definirlo nello specifico, perché è un libro che in realtà è un romanzo, una storia d'amore, solo che invece di raccontare una finzione, una storia inventata, racconta la mia storia d'amore con la musica. E partendo da quando ero bambino, mio padre era una specie di musicista, fra l'altro, e tutti i miei trascorsi, i contatti che ho avuto con le persone con cui ho lavorato, Mina, Milva, Branduardi e altri. E praticamente che allegato a questo lavoro, che si intitola Da quando a ora, proprio per dare un senso di passaggio di tempo, ci sono due CD, uno intitolato Quando e uno intitolato Ora. Sì. Grande fantasia. E in quello intitolato Quando ci sono canzoni che io ho scritto per altri artisti che non ho mai cantato, cioè la mia versione. E in quello intitolato Ora invece ci sono 12 canzoni completamente inedite. Ora succede questo, che come dice il mio amico Branduardi, l'appetito viene mangiando. Sì. E quando ci siamo trovati fra le mani questo lavoro che base a dei risultati tangibili, è risultato essere molto gradito, ci è venuta l'idea di trasformarlo anche in uno spettacolo. Con mia grande soddisfazione e curiosità, perché erano 13 anni che non salivo su un palcoscenico a rappresentare qualcosa. Ero già stato di fronte al pubblico a presentare dei miei libri, ma non è una cosa simile. Mm-hmm. Ecco. E questo spettacolo ha fatto una data zero nella mia città, poi ha debuttato a Firenze al Teatro Puccini, e devo dire che il risultato è stato talmente confortante che adesso, capito, anche qui l'appetito si è incrementato dopo aver mangiato, e devo dire che, pur sentendo distintamente il rumore delle placche di ruggine che si staccavano durante la rappresentazione, devo dire che mi sono ritrovato in un mondo che riconosco essere mio. Io sono, a prescindere dalle qualità delle cose che faccio, ritengo di essere nato per stare su un palcoscenico, cioè un posto è forse il mio habitat naturale. Sono un palcoscenico, è come una pianta di eucalipto per un koala, ecco. Sì, Io me ne sto lì e sono felice, beato. Poi è come per me il divano, insomma. Esatto. Non so, il fatto, io adesso parlo di un artista in senso, come ho modo di spiegare abbondantemente durante lo spettacolo, parlo di un artista in senso tecnico, non necessariamente qualitativo. Che un artista non è, la parola artista di solito si collega alla parola successo, in realtà può anche capitare che il successo, quello grande, vero, non arrivi, ma non per questo manca, viene a essere lesa la nobiltà, sì. La nobiltà di questo tipo di lavoro, ecco. Certo, beh, quindi questo spettacolo lo porterai anche in Veneto? Sì, adesso in questo momento, sopraggiunti i limiti di età, non so se si può dire, credo di potermi considerare un vecchietto un po' rincoglionito. E in questo momento a memoria faccio un po' fatica ad avere un'agenda, però mi pare che nelle date che si stanno mettendo a punto, anche perché devo dire la verità, e forse questo può sembrare poco professionale, il risultato di questo show, questo spettacolo, nel quale sono in scena da solo per 2 ore con alle spalle una orchestra, dico orchestra perché c'è una band con 4 musicisti canonici, cioè Lucio Fabbri, che tutti conoscono, polistrumentista, e poi una chitarra, un basso, una batteria, tutti musicisti d'eccezione, poi c'è un quartetto d'archi, e allora è una compagine abbastanza significativa, devo dire. E il risultato un pochino è stato spiazzante, per cui siamo andati a vedere a ipotizzare addirittura un tour teatrale per la prossima stagione. Beh, assolutamente interessante. Quindi quelli che ti accompagnano nello spettacolo sono anche poi quelli che hanno suonato nel disco? Sì, in buona parte sì. Buona parte, beh. Anche perché nel disco abbiamo voluto fare, pur essendo abbastanza dispendioso, abbiamo voluto fare un disco come forse non se ne fanno più per tutta una serie di motivi, cioè tutto quello che si sente nel disco è stato suonato da esseri umani a parte alcuni effetti, sì. Alcune cose che invece di togliere, con tutto che l'uso dell'elettronica non va considerato un fatto deteriore, però è stata una scelta precisa, cioè tutti i suoni che escono da questo disco, cioè i cori sono stati fatti da uomini e donne, e i violini sono stati suonati da violinisti, le trombette da trombettisti e quant'altro. Sì, che poi queste cose qui magari qualcuno che si interessa di musica le capisce, ma poi c'è quello che usufruisce della musica in maniera così un po' marginale, che non sta tanto poi a vedere. No, ma io ritengo, questo è stato una considerazione, certo. che ho fatto per mia soddisfazione personale, che poi giustamente io mi ricordo un discorso di un noto produttore, adesso se posso raccontare questo episodio, sì. Questo produttore ormai purtroppo scomparso, che è Giancarlo Bigazzi, autore, produttore personale, geniale. E durante una registrazione con un cantante, il quale non faccio il nome perché è vivente, mi ricordo che io sono andato a trovarlo in studio, e questo qua, e uscendo dalla sala di registrazione, e questo cantante, a sua volta musicista, ha detto: secondo me, però, quel Charleston ha un po' troppi acuti. E questo si è fermato con la sua saggezza toscana, ha detto: e tu c'hai ragione, siamo rovinati. Pensa che c'è in questo momento un macellaio a Velletri che, mentre lì che affetta il filetto, non sa che ascolterà sta canzone e dirà: e l'è bella sta canzone, l'avrei comprata, peccato che i Charleston e i c'ha un po' troppi acuti. Perché no, sono... ma queste qua se mi concedi sono le masturbazioni mentali che ogni artista porta dietro di sé, sono dei corollari, sai, come gli squali con quei pesciolini, con le remore che li mangiano, sì. Li tengono puliti e gli indicano la strada, ecco, una cosa così. Beh, comunque sarà senz'altro bello. Secondo te piacciono di più le canzoni che appunto tu hai scritto per altri, dei due CD, quali è che hanno più appiglio sul pubblico, proprio che hai visto, no? Ma devo dire una cosa, con mia grande soddisfazione, perché lo spettacolo è fatto in parte e in parte, mm-hmm. ci sono alcune canzoni di quelle che appartengono al mio repertorio di autore e canzoni assolutamente inedite. Devo dire che è difficile fare una distinzione fra le due. Sicuramente ci sono delle canzoni che, cantate da me, hanno un risultato sorprendente. Perché? Perché forse dentro alla canzone c'è l'anima di chi le ha scritte. Ti faccio un esempio: c'è una canzone che si intitola Compagna di viaggio, che è inciso Mina, nel quale durante lo spettacolo racconto la genesi, che è una canzone che io ho dedicato alla memoria di una mia amica scomparsa anzitempo. E allora l'emozione che io ho provato mentre la scrivevo, cioè il fatto che mentre scrivevo questa canzone avessi gli occhi lucidi, avessi un groppo in gola, in qualche modo io credo che traspaia dalla mia interpretazione, e c'è forse un filo diretto non mediato da quello di un interprete pur straordinaria come Mina. Cioè, se non si può dire che quello che fa Mina, se Mina canta io non canto, cioè non si può usare lo stesso sì. termine per tutte sì. e due. Semplicemente io sono una persona che ha il coraggio di cantare certe cose semplicemente, come dicevo, perché sono un prodotto del mio modo di essere. È tuo, se ti rappresenti. Il giorno che vedete in un negozio un CD Faletti canta Battisti, vi autorizzo a chiamare gli infermieri e a farmi portare via, perché vuol dire che mi sono bevuto il cervello. D'altronde certo. Io sono una persona che su un palco fa l'attore, e in qualche modo questo attore a un certo punto, in qualche momento, per 16 momenti, perché tante sono le canzoni che canto durante lo spettacolo, e si trasforma in un comunicatore musicale, però i cantanti sono un'altra cosa. Ecco. C'è una canzone che tu hai scritto che avresti voluto che qualcuno cantasse, qualcosa che ti piace, un interprete che particolarmente ti sta a cuore, che invece non sei mai riuscito a contattare? Ma guarda, io in questo album di canzoni inedite ce n'è una che si intitola Nudi, che ascolteremo tra pochissimo, che io ho scritto sulla in ricordo di una antica delusione d'amore. Mannaggia. Una canzone che è nata ritrovando una fotografia di un'estate magica nel quale io ardevo di inconsapevolezza, come dice Ungaretti, e c'era questa in ballo questa situazione che poi è andata a finire male, devo dire, anche in un modo abbastanza squallido, e allora, ritrovando questa foto, ho rivissuto quelle emozioni e mi sono messo lì al piano e ho scritto questa canzone. Ecco, questa canzone non penso, ho l'ardire di pensare, che sarebbe stata molto ben interpretata da Fiorella Mannoia. Ah, va bene, allora lanciamo il sasso magari. Anche perché Fiorella Mannoia non si tira indietro su queste reinterpretazioni, insomma. No, ma poi volendo ci sono anche delle cose nuove, per cui... Certo. Va bene. Allora andiamo a sentire proprio questa canzone, Nudi, il nuovo brano che trovate nel doppio CD Da Quando a Ora di Giorgio Faletti. Resta così come sei, non ti voltare. Voglio fissare il tuo profilo in controluce, che col buio riesco solo a immaginare. In questa notte senza abiti addosso, l'amore non fosse il paradosso che è, sarebbe facile da dimenticare. E ora girati verso così come sei, come sorpresa, come se fossi stata fatta così fragile solo per essere difesa, e in questo povero lembo di terra l'amore non fosse la guerra che è, sarebbe facile da ricominciare. E ora vieni vicino, che prende più di quello che ha reso, e ti lascia nel cuore, negli occhi, il colore del rosso rappreso. Sei una notte che passa e va via in un momento, e a due bocche di labbra cucite non strappa nemmeno un lamento. Sei una notte di luna, quante cose da fare. Se volessimo, come se volassimo, come se valessimo. Resta così come sei, fatti sentire, perché il contatto della pelle sulla pelle non è capace di mentire. E in questa notte del tempo contato, l'amore che ha dato tutto il meglio di sé, sarebbe facile da ricostruire. Ma ora resta vicino, così fammi capire. Resta vicino di più. C'è una notte che prende più di quello che ha reso, e ti lascia nel cuore, negli occhi, il colore del rosso rappreso. Sei una notte che passa e va via in un momento, e a due bocche di scappa nemmeno un lamento. C'è una notte di luna, quante cose da fare. Solo se volessimo, solo se volassimo, solo se valessimo di più. E questa è la canzone di Giorgio Faletti intitolata Nudi. Ancora benvenuto Giorgio in frequenza su Blu Radio Veneto nel nostro spazio di Blu Mattino. E mentre tu bevi un po' di acqua, io voglio intanto fresca. voglio parlare ancora un attimo, insomma, del fatto, perché io sono nato con il drive-in, cioè tu sei nato con il drive-in, almeno per quanto mi riguarda. Artisticamente anch'io sono nato col drive-in. Tu, ecco, e quindi tutti non possono dimenticarsi il tuo Porco Mondo e Cane che c'ho sotto i piedi, se riesci a dirlo meglio di me. Ma guarda, sono ormai non c'ho più l'abitudine, dovessi fare la voce di Catozzo ci metto mezz'ora per ritrovarla. Che cosa ricordi di quei tempi? La televisione è ancora così o è completamente cambiata? Ma penso che la televisione sia fortunatamente o malauguratamente cambiata, cioè è inevitabile che ci siano delle evoluzioni e delle involuzioni. Io ricordo un periodo in cui c'era una grandissima voglia di sperimentare, c'era una gran voglia di fare, di percorrere strade nuove, e devo dire che il drive-in ha segnato uno spartiacque, cioè è stata una trasmissione che ha, come dire, proposto e imposto un nuovo modo di fare comicità, più veloce, più snella, anche più densa di contenuti. Contenuti intendo dire non da un punto di vista critico ed estetico, proprio di contenuti, di quantità di battute, ecco. Sì. Io mi ricordo che facendo un calcolo aritmetico, io ho fatto nella mia vita un centinaio di puntate di drive-in, e praticamente ho scritto nell'arco di queste puntate 5 minuti in media a puntata, sono 500 minuti di cose da ridere, che equivalgono alla carriera televisiva di Gino Bramieri, Walter Chiari, cioè quelli della generazione precedente messi insieme. Sì, ecco. Sì, sì. I tempi erano più rapidi, era tutto diverso. Ora devo dire che un evento simile non si è ancora verificato di nuovo. Io credo che la comicità di adesso sia ancora figlia di quel tipo di comicità là. Con questo non voglio dire che ci sono dei ragazzi oggi che magari sono più bravi di quanto non fossimo noi, però gli schemi è ancora quelli. Sì. E io ricordo che mentre eravamo lì, eravamo un gruppo di scalmanati, morti di fame, in pratica raccolti dalla strada dove stavamo facendo tutti i nostri calcoli per sapere dal lunedì mattina se saremmo stati ancora vivi il sabato sera. E ci siamo trovati insieme ed è stato un momento magico. Drive-in, gli studi erano anche un posto che veniva vissuto da tutti quanti. Ecco, tu facevi già teatro prima, o cioè il personaggio è nato come? Ma guarda, avevo alle spalle 10 anni di cabaret, poi facevo altre cose un pochino più teatrali, poi quando sono arrivato a drive-in, naturalmente in quel contesto c'era la necessità di identificare un personaggio, cioè un attore con un personaggio, e allora ho cominciato a creare questi personaggi, dal primo il testimone di Bagnacavallo, Una Trema su di voi, poi è nato quello del Giumbotto, poi è nato Vito Catozzo, la suora e altri che poi ho fatto nel corso della mia carriera, lo stilista di Abbiate Grasso ad Alpina, Attacca la Musica. E devo dire che queste cose fanno parte del mio passato, un passato che assolutamente non rinnego. Mi illudo con un briciolo di onestà intellettuale che facciano anche un po' parte della storia della comicità italiana. Vabbè, senz'altro, senza dubbio. E poi, insomma, questo primo romanzo, questo primo thriller che credo, insomma, tutti gli italiani, se non l'hanno comprato, se lo sono passati. Sì, credo che sia un libro molto letto. Io uccido, che poi parla di uno speaker, quindi voglia, insomma, l'ho letto molto volentieri quella volta. Purtroppo c'è una cosa, il romanzo di esordio, quando è fortunato, come è stato il mio, ha una componente che un autore non potrà mai più dare ai suoi lettori, che è la sorpresa. Per cui, dici, fare il primo romanzo, la gente dice, ma chi se lo sarebbe mai immaginato? Infatti c'è stata tutta una sorta di Toto Faletti, nel senso, l'ha scritto lui, non l'ha scritto lui, gliel'hanno scritto. Ah, addirittura? Scritto, sì, ma c'è stata tutta una serie di... Penso che queste cose, a questo punto, anche perché onestamente nel mondo dell'editoria, uno che pubblica un libro che non ha scritto lui è il segreto di Pulcinella, capito? Come se dall'altra parte di questo microfono al posto tuo ci fosse uno che non sei tu. Dopo un po' uno si rende conto che le cose funzionano così. E poi è uscito un secondo romanzo che è stato molto fortunato, però non aveva quella componente lì, però successivamente, dando due cose, automaticamente crei delle classifiche. Poi il terzo, il quarto, il quinto, adesso credo di essere arrivato all'ottavo, settimo libro, per cui inevitabilmente c'è chi preferisce uno o chi preferisce l'altro. Io personalmente li giudico tutti dei buoni romanzi, ecco. Certo, sì, sì. Fermo restando che è letteratura di genere. Io scrivo dei thriller, dei romanzi che hanno una componente investigativa, ci sono dei morti, a volte anche tanti. Diciamo. Io uccido, li ho contati, sono 22, 23, una catastrofe, un'ecatombe. Anche questa è una cosa strana. Abbiamo parlato di televisione, no? Del drive-in. Adesso c'è questa mania del crimine, cioè non c'è un canale alla sera dove giri, insomma, le vecchie storie di una volta. Ma televisivamente parlando una disamina che è stata fatta di questo mio arrivo nel mondo della letteratura di genere, e un merito che mi viene attribuito è quello di aver sdoganato in qualche modo il thriller all'italiana. Difatti a me dicono che sono il padre degli spaghetti thriller, come Sergio Leone era il padre degli spaghetti western. La cosa mi fa molto piacere, perché essere accomunato a un grande come Leone sicuramente è un onore. Però credo che le fiction che raccontano storie di criminali abbiano il vantaggio narrativo, se può così si può dire, di essere in qualche modo conseguente all'evoluzione dei tempi. Cioè, la figura di Sherlock Holmes con la lente d'ingrandimento adesso è soppiantata da un CSI con lo spettrografo, tu hai capito? Allora, ci sono nuovi modi, la tecnologia porta nuove tecniche di investigazione e anche nuove tecniche per delinquere, e allora tutto si adegua e si uniforma, anche se i motivi per cui vengono commessi i crimini, gli omicidi nella fattispecie, sono anche sempre quelli. Cioè, uno uccide per gelosia, per denaro, odio, per passione, vendetta, cioè, sono tre o quattro, non è che... vero. E poi ci sono i pazzi che purtroppo uccidono per il gusto di farlo, e su quelli non c'è possibilità di indagare. Però c'è molta possibilità, da un punto di vista narrativo, di inventarsi delle cose. E questo mi fa capire che stai già pensando a scrivere qualcos'altro. Ma io volevo soprattutto rassicurare una cosa, le persone che mi apprezzano come autore, io non ho nessuna intenzione di mollare questa cosa che mi piace moltissimo, che è un'oasi. Solo che ogni tanto come dico sempre è bella come costruzione di... Ogni tanto, come dico sempre, ti interrompo perché abbiamo un po' di pubblicità, l'informazione delle 11, poi torniamo a parlare con Giorgio Faletti. Va bene. A tra poco. Blu Mattino. Nel nostro spazio di Blu Mattino, sempre un saluto da Francesco Galante e un saluto a Giorgio Faletti, che è con noi per ricordo presentarci, l'abbiamo fatto prima, questo triplo lavoro, perché c'è questo libro con annessi, due CD, che si intitola Da quando a ora il libro, mentre i due CD sono Quando un CD e Ora è quell'altro. Allora, Giorgio, poi sentiremo un'altra delle tue canzoni. Mentre ci salutavamo prima del radiogiornale dall'Italia e dal mondo, abbiamo anche sentito i primi 10 secondi della canzone che risentiremo dopo, che si chiama Angelina. Angelina. Dovevamo chiudere un discorso? Sì, dicevo, avevo iniziato quella frase, con quella frase felicissima, ogni tanto, come dico sempre. E volevo dire che è molto importante per un comunicatore, un artista, ripeto, in senso tecnico e non strettamente qualitativo, e un artista ha il dovere di stupire chi lo segue, sì, ma anche il diritto di stupire se stesso. E di conseguenza io ho confermato, tranquillizzato i miei lettori che non abbandonerò assolutamente, anzi penso che a settembre mi chiuderò in un luogo a Concio e inizierò a scrivere una storia che ho già parzialmente in mente e che sarò nelle librerie il prossimo maggio, cioè, diciamo all'inizio, fra un anno a quest'epoca. Ecco, quindi l'idea c'è già comunque? L'idea c'è già, è anche abbastanza delineata. Poi fortunatamente per me la mia crisi non dipende dal fatto che non ho idee, ma che ne ho troppe, non so mai fra quale scegliere. E però nel frattempo ho preso questo, non la definirei vacanza, però ho deciso, dopo anni in cui ho continuato a scrivere canzoni, spinto da amici tipo Lucio Fabbri e Massimo Cotto, che è poi il produttore esecutivo di questo album, ho deciso di fare una cosa che mi interessava fare, di andare a investigare in prima persona il campo della musica, dopo averlo fatto per interposta persona attraverso le canzoni che ho scritto per altri artisti. Ho capito. Andiamo a parlare un attimo di Angelina, canzone che ascolteremo tra poco quando ci saluteremo. Angelina è una canzone che io ho scritto spinto da un moto di tenerezza e di complicità che nasce da, come ho modo di raccontare nello spettacolo, da un incontro fortuito in una gelateria. Io sono un fanatico del gelato, avendo una componente infantile molto accentuata, sono un fanatico del gelato e nello specifico del fior di latte. Ah, vedi. E mi ricordo quando sono stato qui a Padova durante il periodo del militare, che ci sono delle gelaterie straordinarie. Sì, ecco. Di conseguenza me le sono fatto il giro delle 7 gelaterie, non delle 7 chiese. E ero in coda in una gelateria della mia città, sentivo queste due ragazzine che parlavano, giovani, 15 anni, di conseguenza belle per definizione. Le sentivo parlare e sentivo una che raccontava a un'amica di questa delusione d'amore che aveva avuto, questa storia con sto ragazzo che la trattava male. E io avrei voluto confortarla, avrei voluto dirle un sacco di cose che crescendo purtroppo la vita ti mette davanti a delle prove che fanno sembrare questi problemi assurdi. Cioè, li risolvano purtroppo e fortunatamente. Io ricordo anche con una certa precisione, quasi chirurgica, ai miei 17 anni, e gli effetti di una delusione amorosa a quell'età sono devastanti, perché non hai difese, non è neanche giusto averle. E allora non ho detto niente, con il mio fior di latte in mano sono tornato a casa, però ho preso la chitarra e ho cominciato a strimpellare. Sono partito da un famoso proverbio, un modo di dire che dice mal di denti mal d'amore. E allora ho cominciato sulla chitarra ad arpeggiare e mi è venuta questa prima frase: che mal di denti stanotte Angelina, che mal d'amore. Ecco, e da lì è partito tutto quanto. Adesso io sono tornato in quella gelateria, non l'ho più incontrata, però devo dire, spero che sia felice, sì, e che non le passi mai, come dicono allo spettacolo, il gusto per il gelato e per la vita, che in fondo sono la stessa cosa. Gran belle parole, poi sentiremo la canzone. Chiudiamo, perché insomma non voglio rubarti ancora altro tempo. Chiudiamo chiacchierando del fatto che tu ami il sole, mi dicevi. Ami stare. E io sono diventato una lucertola col tempo. Penso che ho passato la mia infanzia, la mia adolescenza, essendo nato ad Asti, di conseguenza vicino alle montagne, praticamente sugli sci. Sì. Facendo anche gare, ero nella squadra di sci del mio reggimento quando ero militare. E adesso col tempo, con l'età, le ossa, cioè io mi ricordo una battuta, una delle ultime volte che siamo andati a sciare con questo gruppo di amici, eravamo lì con gli scarponi tutti intabarrati che stavamo camminando, sai quando trascini gli sci per arrivare allo ski lift? Sì. E stava nevicando e faceva freddo eccetera, e quando siamo arrivati allo ski lift io ho detto una battuta che fra i miei amici è diventata famosa, cioè li ho guardati e ho detto: ma è sicuro che ci stiamo divertendo? È più fatica che altro. E allora poi questo è a prescindere. Io adesso l'idea di freddo al mattino, svegliarsi, pigliare tutta quella cosa con gli scarponi, cioè lo scafandro, il mio sogno è quello di vivere senza mettere mai più il cappotto. Ecco, io quando dice, ma l'acqua è troppo calda, no, io, quando gli altri buttano la pasta io faccio il bagno, mi piace l'acqua che bolle. Sì, ecco. Ho capito. Difatti Abano, che è in questa zona, per me è la temperatura ideale dell'acqua, io mi sguazzo come un pesciolino. Ecco. Va bene, quindi sappiamo che quando verrai la prossima volta a portare il tuo spettacolo in giro, magari proprio in teatro, da quando a ora, una cappatina Abano Terme. Ma quello è sicuro. Va bene, grande Giorgio Faletti, che era stato con noi questa mattina per raccontarci insomma un po', sarebbe bello continuare a chiacchierare con te, però insomma il tempo ahimè è tiranno, quindi Giorgio io ti ringrazio, ti faccio gli auguri per il tuo spettacolo. Tu come sei messo a livello di internet? Sei uno che digita molto? Ma io vivo la tecnologia come uno della mia età, cioè sì. Non è che ci sono nati in mezzo, mi è capitato addosso, sì. Per cui uso quel tanto che riesco ad utilizzare, però adesso difatti non ho, cosa abbastanza inusuale, non ho mai avuto un sito, ecco. Cosa alla quale ho ovviato, e credo che mercoledì verrà aperto il mio sito ufficiale, GiorgioFaletti.it, dove potrete trovare notizie di tutte le mie multiformi attività, sì. Alle quali recentemente si è anche aggiunta la pittura, e cosa che mi diverte tantissimo perché mi sporco come un bambino. E potete avere anche ovviamente i calendari delle mie performance. E questo è molto utile, penso, per chi vuole seguirti assolutamente. Quindi tra qualche giorno uscirà. Sì, dovremmo riuscire ad aprirlo ufficialmente mercoledì. Vabbè, avrei voluto parlare del fatto che tu hai fatto anche il doppiatore di cartoni animati, ci teniamo per una prossima puntata. Ho fatto nella vita molte cose che mi hanno portato molto divertimento, alcune mi hanno portato, non lo nascondo, anche un po' di denaro, però avrebbe potuto essere di più se io fossi stato, diciamo, una persona più disponibile a tirare fuori ogni tanto i fogli a quadretti, come si dice, quelli dove si fanno le somme. Invece è l'ultima cosa che mi interessa, per cui non ho mai pensato al futuro, ma a costruirmi giorno per giorno un bel passato. Ecco, questa è la cosa importante. Ecco, chiudiamo allora con questa frase di Giorgio Faletti. Grazie Giorgio, buona giornata. A voi e a tutti quanti quelli che hanno avuto la bontà di ascoltarci. E andiamo a sentirci allora una delle canzoni che abbiamo citato prima, Angelina, Giorgio Faletti, dal CD Quando e Ora. Stanotte Angelina, che mal d'amore, ma va tranquilla che non ha preso soltanto te, che siamo tutti traditi, tutti feriti, tutti pesti sotto gli occhiali, ad aspettare dall'alto il frullo di un paio d'ali, a ad aspettare che dietro spunti un bel paio d'ali. E va da sé che la lingua batte dov'è il dolore, ed è un biscotto sempre indeciso fra tè e caffè, che siamo tutti perplessi, tutti compressi come acciughe dentro ai barini, ma non è uguale zucchero e sale di averne a chili, ma non è uguale zucchero e sale quando lo fini. Del mondo che gira, che gira, che gira. Se abbiamo sopra la testa una mosca molesta che gira, che gira, che gira. Se la fortuna è nel crissi di luna e adesso non gira, non gira, non gira. E se la vita è una ruota infinita che spesso non gira, non gira, non gira. Se non ci resta nient'altro da fare, ti guarderemo stupiti volare. Che mal di denti stanotte Angelina, che mal d'amore, ma va tranquilla che siamo presi peggio di te, che siamo tutti vincenti, tutti perdenti, tutti soli fra tanta gente, ecco perché siamo pronti a tutto ma buoni a niente, ecco perché per avere tutto ci resta niente. Lumattino.